Tutto iniziò quando quattro criminali del regno di Assemblea si trovarono a dover affrontare delle sfide che nemmeno nei loro più reconditi sogni avrebbero mai pensato di dover sostenere. Dopo essere stati mandati all'avamposto della Legio Presidio ad Aitate, Shiloh, Lisbeth, Xar e Morwen scapparono, poiché un esercito dalle fattezze grigie aveva attaccato l'avamposto e sarebbe dilagato in tutto il regno. Scoprendo di poter usare la magia, nonostante questa fosse una leggenda, i quattro appresero la storia dei quattro dei grazie ad Evan e al sogno della loro marcia funebre. In fuga dall'esercito grigio che invadeva dal nord, incontrarono molti pericoli, tra i quali le viverne, il ritrovamento del corpo morto di Warash, l'assedio di Adrian dove Xar perse la vita. I tre sopravvissuti, nella speranza che nelle memorie dell'elfo oscuro Warash, riportato in vita da Lisbeth, vi fosse la soluzione dell'apocalisse che stava arrivando, si diressero verso East Coast. A loro si unì Agmar, che li accompagna fino ad adesso. Per cercare di entrare nella biblioteca del Tempio, dove Warsh diceva fossero contenuti i suoi ricordi, e al contempo l'antico sapere, i nostri eroi dovettero chiedere aiuto a Bodhi per aprire la grande porta che ne bloccava l'ingresso. Giunti a casa di Marilyn, sua moglie, vennero a sapere che l'ingegnere aveva percorso il cammino delle 8 prove di Osaka. I nostri coraggiosi avventurieri, supplicati da Marilyn, si stanno lanciando all'inseguimento.